Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Sono le 8:20, eccoci caro Oscar. E allora, il closing. C'è il giorno del closing. C'è il giorno del closing, già vedo con Meazza, ho sentito prima che vi siete scambiati favorevoli opinioni, ma d'ora in poi vi parlerete cosa siete, in mandarino, non lo so. Non lo so, dovete trovare una specie di lingua comune asiatica. Per deve avere invece del il caffè, il tè, il tè. Deve trovare un avverbio per invitarti a leggere i fascicoli del Sole 24 Ore. Mandarinamente, sì, appunto, sì. Deve essere qualche cosa che sia fatto e che vi trovi d'accordo soprattutto, perché io poi quando vedo che, insomma, dai, è inutile dividersi per squadre, bisogna essere solidali. La vera battaglia è quella di libertà contro il predominio della illibertà. Capisci a me cosa vuol dire l'illibertà nel campionato italiano, senza che io lo debba dire? No, esatto. No, io non lo dico. Però perché io ti leggo nel pensiero, ma dillo tu. Io invoco una convergenza comune. Ecco, questo è. Però, no, detto tutto questo, un po' arriva un messaggio: muti. Sì, ecco, esatto. E c'è il tuo fratello che ci richiama al dovere e all'ordine. Sento già che arriva. Devo dirti, però, adesso vado subito al santo, che ieri mi ha colpito la mi ha colpito molto, per una volta, dai, parliamone bene di questi tifosi. Dopo le bombe di Dortmund, che a me continuano a lasciare, mamma mia, pensa che hanno pianificato lungo il percorso della squadra quelle bombe, ed è andata bene, perché poteva veramente finire molto molto male. Però ieri i tifosi di quelle due squadre hanno dato uno spettacolo meraviglioso, e secondo me va sottolineato. I cori comuni, l'invocazione all'inizio e alla fine del giocatore che è stato ferito, le sciarpe fatte con i colori misti, ecco, queste cose qua. È stata, posso dire, se è stato un attentato terrorista islamico, è stata una bella risposta. È stata una bella risposta, la giusta risposta. Organizzata in poche ore in maniera comune, e questo unisce, visto che stiamo parlando di un fenomeno enormemente popolare, si va verso i turni ultimi della Coppa dei Campioni in Europa. Beh, mi è piaciuto, sono molto contento, a dire la verità. Allora, santo di oggi, prima del santo di oggi per tutti i credenti è un giorno, per tutti i credenti ovviamente, cristiani e cattolici, un giorno particolare perché è l'ultima cena, e quindi l'ultima cena è, per così dire, il messaggio formale e personale lasciato da Cristo agli apostoli, che però in Italia ha avuto un'applicazione alla lettera molto particolare, devi sapere, perché tu ricordi che nell'ultima cena, visto per come siamo stati educati, la frase centrale di Cristo agli apostoli è: vi ho dato l'esempio perché come ho fatto io facciate voi. E questa cosa viene proprio seguita alla lettera dalla politica italiana, da quando tanti decenni fa i presidenti del Consiglio Democristiani si guardarono e dissero: ma il Signore ce lo ordina, io ho fatto e voi come noi, e il Signore ce lo ordina. E quindi da quando ho iniziato ad alzare le tasse, lo dicono a tutti quelli che vengono dopo, e fate come me significa per tutti i premi successivi alzare le tasse. Capita anche con questa nuovo DEF, e vedremo e ne parleremo. Ma comunque, al di là della mia battuta, oggi l'ultima cena ricorda a tutti l'impegno. Ecco, Martino I, santo, papa. C'è anche una beata Margherita di Città di Castello. No, ma te l'ho detto. Che pensa, la poverina nacque storpia e cieca in famiglia nobile, che vendendo la storpia cieca la abbandonano alla chiesa, e lei passò la sua, peraltro non molto lunga vita, ma 33 anni in un esempio di santità, di dedizione agli altri, cieca e storpia com'era. A me piace proprio per questo, tra le tante sante beate Margherite, perché è l'idea che chiunque, anche se con i mali, con le cose eccetera, può riempire di sé e agli altri l'idea di una buona vita, e questo mi piace particolarmente, mi piace non solo per questo ma per chi lo testimonia nella vita, anche di fronte a malattie come il cancro e così via. Detto tutto questo, oggi ricordiamo due circostanze. Nel 1970, proprio nella giornata di oggi, viene pronunciata la famosa frase da un astronauta che era a bordo dell'Apollo 13, dove era esploso un contenitore di ossigeno liquido: Houston, abbiamo un problema. Houston, we have a problem. Esattamente. Una missione sciagurata. Mentre nel 1986, pensate, era solo la prima volta nella storia da che c'è il cristianesimo, che un papa mette piede in un tempio ebraico. Era solo nel 1986, era Giovanni Paolo II, era la sinagoga di Roma. E pensate che cosa ha significato interrompere 2000 anni di incomprensione. Io penso sempre che queste cose vadano ricordate nel giusto spirito. Ma veniamo alla cosa di oggi. Vogliamo lanciare un appello al presidente Grasso del Senato? Sì, lanciamo un appello, perché è un momento dell'impazzimento della politica, nel senso che tra Agnelli, Agnellini, No, perché la collega, la Camera, l'hai visto da Boldrini, che ha voluto imitare Berlusconi. Quello sto dicendo, sì, di fatto. Quello sto dicendo. Ed era un po' anche rigida, po' dura con questi Agnellini. Vale, sì. Gaia? Gioia? Come vi chiamate? La stessa. Quanto tempo ci hanno? Due mesi, quindi le abbiamo salvate alla macellazione. Sì, io pensavo di adottarle. Tra l'altro c'è il problema che c'è il gatto a casa e quindi Gillibillo, come non lo so. Sì, ma insomma, sembrava essere l'appello in aula, però detto tutto questo. Ma no, è il tono. Hanno alzato le zampine. La richiamo. Come no? Beh, però, no, allora, insomma, però voglio dire, dopo Berlusconi che con la sua, come sempre, teatralissima, simpaticissima, perché Berlusconi niente, riuscirà fino anche dall'aldilà a far così. Si capiva che era una rescia, sembrava un perfetto spot, tutto fanè con il colore in fa. Il biberon, però, il biberon, ragazzi, il biberon. Nell'autoteatralità con l'Agnellino, lui è come se veicolasse anche a chi lo guarda: sì, c'è il significato, lo sto facendo, però capisci a me, no? Invece, con questa durezza rigida della Boldrini, è tragico. Quindi, non resta che chiedere anche al presidente del Senato un impegno. Quindi, dia un significato vero all'espressione piemontese così sì. cara, noi chiamiamo la carne del bue grasso, e quindi, che ne so, adotti un qualunque animale, impegnarsi a non mangiarlo, tipo una zanzara, una mosca, eccetera. Ma diamo Cruciani, ecco, ma no. Però rimanga animale per almeno, animale, almeno lui, presidente Grasso, e o almeno non si vergogni di dire che mangia l'agnello, il come, buo, come animale qualcosa. Giuseppe può andare, no? Giuseppe Cruciani in quanto zanzara, ecco, che, si impegna a non mangiarlo, e anche quello è un impegno giusto, sì, della libertà dell'informazione. No, tra l'altro, poi magari se volete chiamarci 800 24 00 24, stavamo discutendo adesso con Oscar per questo impazzimento della politica dopo la dichiarazione di Di Maio, no? Sui rumeni, sui con, rumeni. Con mezza comunità rumena, l'ambasciatore, tutti. Perché contro. Tu come l'hai capita? Ma io che ho capito, poi, cioè, poi, in realtà, è di Di Maio, ma è anche del in realtà è pubblico ministero Ardita. Esatto, il pubblico ministero Ardita che vogliamo sentire, a Ivrea. Il ministro rumeno degli interni, se non sbaglio, ci comunicò che di tutti i mandati di cattura europei che riguardavano cittadini rumeni, il 40% proveniva dall'Italia. Quindi questo significa che 4 rumeni su 10 che avevano deciso di andare a delinquere hanno scelto il nostro paese come luogo nel quale delinquere. Questo è un problema importante. Cioè, Ardita l'ha detto così. Cioè ha detto 4 rumeni su 10 che delinquono. E questo è il fatto. 4 su 10 lo fanno in Italia. Quindi il 40% dei delinquenti rumeni sono e in Italia. E lui poi ne dice, cioè significa che 4 su 10 hanno scelto di farlo in Italia. Allora, detta così. No, magari hanno fatto un crimine in Romania e si trovano in Italia. Mandato di cattura si trovano in Italia. Detta così è uno degli argomenti che il magistrato, che Ardita fa il magistrato, sì. Sa che tra il primo numero e il suo cioè c'è una abile interposizione di un suo giudizio personale, che è quello di parecchi magistrati italiani che dicono: abbiamo reso l'ordinamento così favorevole a chi delinque rispetto sì. a loro che ne vogliono manette per tutti, che dicono infatti vengono in Italia a scegliere. Beh, questa cosa. Su questo un pizzico di ragione però forse ce l'ha. Allora, un pizzico di ragione ce l'avrà per alcuni furti, quelli nelle ville, quelle contro proprietà e così via. Ma quello che dice Ardita, che è ripetuto da Di Maio, detto così resta sbagliato. Perché? Prima affermazione, numeri fattuali, quello attribuito al ministro. Il 40% dei delle richieste internazionali su rumeni viene dall'Italia. questo è detto al ministro ed è vero. Però se deduci da questo, quindi 4 su 10 che hanno scelto di delinquere hanno scelto di farlo in Italia, perché sottinteso ci siamo capiti, questo è sbagliato, nel senso che quel 40% deriva dal fatto che il 40% degli totale degli emigrati romeni in Unione Europea ha scelto di venire a fare in Italia. Quindi quel 40% di rogatorie di romeni che vengono, sono in Italia, è esattamente allineato alla quota dei romeni sul totale degli immigrati. Quindi significa che non c'è nessun discostamento tra il totale dei romeni qua, la maggior parte assolutamente per bene, e il totale delle richieste rogatorie internazionali. Se fosse vero quello che il magistrato le sta facendo capire, in cui è cascato Di Maio e Di Maio ha ripetuto, noi dovremmo avere le richieste superiori al 40%. Allora, io spero che a casa sia ben chiaro, il 40% è il totale della quota di sul totale mandati, degli emigrati romeni, no, 40% anche, stanno in Italia, in anche, Europa. C'è anche da dire una cosa, che in quel 40% di mandati internazionali di persone criminali rumene che si trovano in Italia, potrebbero avere compiuto, ci sarà una minima percentuale, un reato in realtà in Francia, dovunque sono, in Spagna, perché sono e poi ora si trovano in Italia. Però il reato però l'hanno compiuto in Francia o l'hanno compiuto in Spagna, è esattamente allineato, lo ha spiegato ieri benissimo Luca Sofri sul Post, è esattamente allineata alla percentuale di distribuzione sul totale di immigrazione romena in Europa della quota romena in Italia. Quindi non c'è, se fosse vero vengono qua di più i delinquenti perché è meglio qua, sarebbe il 70%, bravo, sarebbe il 50%, il 45, il 60. Non capire questo significa essere un po' disattenti alla statistica, però attenzione, perché poi questi sono gli argomenti con cui si fa la propaganda populista. E che lo faccia un magistrato, mi dispiace, lo fa Di Maio, non so cosa dire. Ma... però insomma, se volete parlare di questi temi, però noi dobbiamo tornare un attimo alla questione degli animali, degli animali. Quindi parliamo, e quindi abbiamo un politico delle... no scherzo salutiamo Francesco Bruzzone, spero che ami la battuta, presidente del consiglio regionale della Liguria. Buongiorno Bruzzone. Buongiorno. Cacciatore, diciamolo subito, cacciatore. Perché lei ha fatto un appello pubblico a dire basta, non se ne può più, partito Lega, non l'ho detto, i professori a scuola devono smetterla di, come dire, parlare male della caccia, devono iniziare a spiegare che la caccia ha anche una sua funzione importante, una sua, è uno strumento di controllo, ma non è che vuole proporre addirittura lezioni di caccia come qualcuno ha scritto? No, direi proprio no, chi ha scritto così ha capito male. Io ho fatto un ragionamento che parte da dei dati concreti, e cioè nel nostro paese, in modo particolare sulla dorsale appenninica, la fauna selvatica, in modo particolare gli ungulati, che sono cinghiali, caprioli, eccetera, sono in forte aumento. Creano dei problemi. Da un po' di anni gli enti pubblici cercano di risolvere il problema del cinghiale in autostrada piuttosto che sulle spiagge. Non ci si sta riuscendo. Di fronte all'aumento della fauna selvatica in questo paese stanno diminuendo gli unici che concretamente intervengono sulla fauna selvatica, che sono i cacciatori. Da qui deriva un ragionamento e cerchiamo di migliorare un po' l'immagine, perché oggi questa diminuzione deriva dal fatto che in questo paese sono stati considerati male. E poi sono un po' stanco, un po', un po' stufo di ricevere telefonate da tanti tanti cacciatori papà hanno il bambino di 7, 8, 9 anni, quindi parliamo anche a livello di scuola elementare, che arriva a casa e dice ma papà, la maestra mi ha detto che sei un assassino. E queste telefonate fanno male. Fanno male al bambino, fanno male al papà, fanno male a me che ne ricevo a centinaia. E non è vero, cioè non è così. Quindi sono partito un po' da questo tipo di cose. Diciamo, uccidere uccide, però un animale ovviamente... Guarda, io rispetto in questo paese tutti, rispetto i vegani, rispetto chi vuol proteggere l'agnello, rispetto chi ragiona se è meglio proteggere l'agnellino piuttosto che il pastore che rischia di morire di fame se non ha l'agnellino. Sono problemi che ci stanno e ognuno è libero di dire quello che vuole. Quando però dici a un bambino di 7-8 anni che il papà è un assassino, è brutto, perché è esercita brutto, un'attività lecita consentita dalle leggi, dall'Europa, peraltro in Italia abbiamo una legge sulla caccia più restrittiva d'Europa, Cioè, voglio dire, a questo punto fermiamoci un attimo, e quindi ho voluto lanciare un appello, non a insegnare la caccia nelle scuole, come Don Cadura ha detto, ma a migliorare, a cambiare questo discredito nei confronti dell'attività venatoria che oggi è spalmato in modo molto forte sulle scuole italiane. Vabbè, insomma, questo, cioè, giustamente Bruzzone non gli va di passare per un delinquente, ecco, fa una cosa, la caccia, che è assolutamente legale, è regolamentata, è, ci sono delle leggi. Direi anche utile di fronte a certi problemi, perché il contenimento di questo forte cinghiali aumento... leggevo sul secolo XIX che ha iniziato a causare anche incidenti d'autostrada, insomma, che dobbiamo fare? Piuttosto gravi anche, tra l'altro adesso andiamo nei prossimi mesi in aumento, no? È il periodo in cui gli animali, i cinghiali stanno aumentando, perché si stanno riproducendo. Se sul territorio ci sono 10.000 cinghiali e fra 4 mesi diventano 40.000, oggi ci sono dei problemi, cosa succede? Cerchiamo di capire che è un problema che va affrontato e non va affrontato identificando il cacciatore come l'assassino. Oggi è un operatore ecologico, un operatore sociale quasi, il cacciatore, perché fa degli interventi che sono indispensabili, e purtroppo, forse per colpa degli enti pubblici, forse per colpa di non so che cosa, è l'unico che riesce a fare. Però c'è una cosa che vorrei chiedere, ma per farla spiegare meglio a chi ascolta, perché un conto è, cioè, distinguiamo, ci sono problemi dovuti da sovrappopolazione di ungulati e gli effetti che questo provoca sull'agricoltura, sull'equilibrio del territorio, rispetto anche alla biodiversità, perché poi spariscono alcune razze quando loro sono troppi, e così via. E in quel caso bisogna rivedere le norme che consentono l'abbattimento di capi in relazione all'eccesso, alla cosa. E questo è un punto. L'altro punto è, se ho capito bene, perché così ha detto, io sono stufo che la scuola ci dipinga i cacciatori come assassini. Ecco, in quel caso, per capirci, secondo lei, glielo chiedo anche come amministratore pubblico, c'è un problema di cultura diffusa, un po' troppo diffusa, ma insomma di cultura da parte di chi insegna e veicola ai ragazzi di queste scuole, o secondo lei è proprio un indirizzo della scuola, cioè c'è qualche cosa nei programmi, come devo dire, ma insomma di ufficiale, che secondo lei c'è da correggere nel come si presenta storicamente oggi il fenomeno della caccia agli occhi dei ragazzi? Guarda, io penso che sia un problema di cultura più che di diritto, sì. Nel senso che, ma da quando io ho 50 anni, 55, ma già da quando ero ragazzo io i primi segnali erano negativi, e i frutti oggi li stiamo vedendo. C'è una cultura generale, una moda quasi, che è diventata quasi una moda, di fare quel tipo di ragionamento, di dire i cacciatori sono, poi, salvo poi magari andare nella trattoria di campagna la domenica a mangiare le tagliatelle col cinghiale piuttosto che con la lepre. Gli stessi che fanno quella roba e fanno bene a mangiare la tagliatella col cinghiale, poi sono quelli che dipingono il cacciatore come... No, come magari quelli no. Io le faccio un esempio. Quelli che poi vanno a mangiare la tagliatella al cinghiale. Avrà visto che la scorsa, pochi giorni fa, c'era un prefetto, che in particolare, prefetto di Milano tra l'altro, che dice: io non faccio altro che respingere le richieste di nuovi porti d'armi che mi vengono. Sì. Perché se date un occhio, dice al prefetto, a quante armi legali, legalissime ci sono in Italia, guardate che già ce ne sono troppo. E allora tutti i giornali hanno pubblicato i numeri, più o meno, no? Quanti cacciatori, 770.000, quanti iscritti al tiro a segno, 416.000. E la reazione di tutti era: mio Dio, abbiamo 1.200.000 solo in queste due categorie. E poi bisogna sommare quelli che lo chiedono per le professioni della sicurezza, quindi abbiamo più di 2 milioni di italiani con armi legali, e tutti si preoccupavano di questo. Questo è uno dei motivi per cui c'è il timore, no? Cioè che la disciplina poi nel come si tengono le armi a casa, se si hanno dei minori in casa o se si litiga, tutto debba essere fuori dalla portata di chi litiga. Questo è un po' uno dei motivi, oppure no, secondo lei? Ma io credo, parto da una valutazione, tra l'altro siamo proprio a qualche giorno dall'approvazione della direttiva comunitaria armi, che dovrà essere recepita dal nostro paese, e verrà recepita in modo abbastanza leggero, in quanto già oggi la regolamentazione per l'esenzione delle armi in Italia è molto più restrittiva rispetto ad altri paesi, a cominciare proprio dalla Francia. E poi diciamoci le cose come stanno: chi vuol fare atti di delinquenza, salvo le pazzie, uno diventa matto, che sia cacciatore, che sia poliziotto, che faccia un altro mestiere, se ha un'arma è un problema. I delinquenti, quando vanno a delinquere, non usano armi regolarmente detenute, regolarmente denunciate, con regolare matricola, eccetera, ma fanno uso di altre armi che sono abusive, che sono illecite. Beh, allora, semmai dobbiamo andare a intervenire su questo tipo di commercio nero che oggi c'è comunque in questo paese, che è quello che consente ai delinquenti di delinquere senza che l'arma venga poi ricondotta ad un proprio proprietario. In questo caso i cacciatori, i tiratori, eccetera, sono completamente... In ogni caso, Bruzzone, noi nel ringraziarla, avrà visto anche lei le immagini degli agnellini, Berlusconi, Biberon, la Boldrini, adesso non si sa la prossima iniziativa quale sarà. Lei cosa... Ha detto che rispetta tutti. Libertà di espressione da parte di tutti, però forse dimmi un po' un appello alla coerenza, dire no alla pecora e poi girare con le scarpe di pelle o la cintura di pelle, io vedo che ci stia un po' di incoerenza. Quindi vegani, va bene, lo siano, io non lo sono, mangino erba come fanno altri animali, diano magari, se ci si riescono, una dieta vegetariana al loro cane e al loro gatto, poi alla fine vediamo se forse questo tipo di idea rispetta quella che è la natura oppure è contro natura. Io credo che dare da mangiare vegano o vegetariano a un cane, a un gatto, anche se sei vegano, sia contro natura. E qui forse è un punto interrogativo grosso. E va bene. Credo che i vegani più stretti lo facciano, insomma, di dare anche l'alimentazione vegana ai loro animali. È mai dura un cane e un gatto mantenerlo solo di erba. No. questo è vero. La ringraziamo, grazie ovviamente per essere state con noi, al Presidente del Consiglio regionale della Liguria, Francesco Bruzzone, della Lega, cacciatore, che ci ha spiegato perché ci vorrebbe una maggiore sensibilizzazione sul tema della caccia nelle scuole. Tu lo sai che c'è una campagna tra cui i nostri ascoltatori che è molto sensibile a questi temi, sì. Però loro l'hanno volta, a me sono arrivate ieri 3 lettere dicendo lanciate, dateci voce, caro Oscar e Alino, anche noi siamo per questa campagna, adotta un animale, scegli un politico. Va bene, temevo che si arrivasse a un finale perché ce l'avevi lì. Andiamo, no, ma io la trovo fantastica. No, andiamo in pubblicità. Adotta un animale, scegli un politico. 24 mattino, attenti a noi due. Allora, alle 8:44 minuti. Il messaggio è arrivato, non è muti, ma state buoni. State buoni. È stato più delicato, ma il senso era uguale. Il senso era questo. Allora c'è Giuseppina dalla provincia di Savona, buongiorno. Buongiorno Giannino. Eccoci. Senta, visto che il signor Bruzzone sarà ancora nei pressi o perlomeno in linea, volevo dire, noi siamo liguri, abbiamo dei terreni e naturalmente ogni anno abbiamo dei danni alle colture, patate, tutto quanto. Però i cacciatori dovrebbero ammettere che loro sono stati ad aumentare la quantità dei cinghiali per avere opportunità di caccia, brava. Capito? Li hanno immessi, li hanno alimentati. Io ho un terreno lontano dalla casa e ci trovo sempre delle grandi masse di grano turco in grano per avvicinarli, no? Per poterli portare nella zona e poterli cacciare. Quindi lei dice i cacciatori... Dicano, siamo assassini o non lo siamo. Il problema vero è che purtroppo noi qui siamo danneggiati, a parte che possono essere pericolosi anche molto per le moto, per le macchine, perché a volte succedono questi incidenti, ma soprattutto i danni alla cultura. Siamo costretti a cintare tutto, anche un campetto banale, sì, di patate. Cioè, la Giuseppina dice che i cacciatori, magari mettendo del cibo qua e là, insomma, incentivano il cinghiale ad avvicinarsi per cacciarlo. E vabbè, è chiaro che ci pone questa problematica. La ringraziamo. C'è Manuel da Terni. Buongiorno, Manuel. Dunque, vivo in una zona di caccia, sì. Perciò posso dirle benissimo quello che succede e che quello che fanno i cacciatori. Le dico, guardi, prima cosa, uccidere per divertimento non va bene, no? Questa è una cosa fondamentale. Vabbè, questa è la sua posizione, sa? La legge prevede la caccia sì, per la divertimento, caccia, per mangiare prevede... forse, per mangiarselo. Ma chi fa? Mangiarlo, sì, certo, mangiare... loro mangiano il cinghiale, ne fanno commercio, lasciano le cartucce da tutte le parti. Da tutte le parti, lasciano rifiuti da tutte le parti, tagliano tutto il sottobosco perché devono cacciare i cinghiali che loro poi dall'altro lanciano, perché loro per aumentare la popolazione chiaramente lanciano i cinghiali, i piccolini, fanno allevamenti a parte, tra l'altro. Queste sono le varie problematiche, sparano all'interno, questo lo permette certo la legge, ma sparano anche all'interno delle terre di proprietà. Insomma, lei ce l'ha con i cacciatori, soprattutto quelli che non rispettano assassino rispetto a... ma poi ti dico, cioè, non, cioè, l'uccidere con gli animali non si possono, dice, beh, sono animali, tanto si possono uccidere. Vabbè, però Manuel, su questo, come sa, è la sua posizione, noi rispettiamo tutti, ma è la sua posizione, e il cacciatore direbbe che non c'è la legge che lo prevede, e uccidere un animale evidentemente non ha per il cacciatore la stessa, come dire, sensazione che pensa lei, e sono opinioni diverse, che su questo non, come dire, è anche inconciliabile, non è che uno la pensa in un modo e uno in un altro. Capisco quello della legge, infatti il problema è quello del come è stato referendum con Craxi che diceva andate al mare, e chiaramente quello è stato veramente il punto. Va bene, Manuel, grazie, grazie. Guarda qua che ci sono anche sui romeni, caro Oscar, ecco. I nostri ascoltatori. Antonio da Milano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e due, e forza Inter, visto che sempre domani, comunque, no, più che forza Inter, tanti auguri all'Inter. Grazie. Per la partita di domani. È scritta, tanti auguri gli uni con gli altri, questa è la civiltà che mi piace. No, niente, volevo intervenire sulla cosa di Ardita, di Di Maio, sì. Spostando l'attenzione, ma lo sappiamo, l'avete fatto anche voi, sul problema che in realtà queste persone vengono, fanno, il problema è solo mio se entra qualcuno in casa, ecco, quello è il discorso. Non ti puoi difendere, non puoi fare nulla. Io non voglio avere un'arma in casa, ho due figli, non lo farei mai. Ho paura di avere per le mani una cosa del genere, non si sa mai, mi scappa anche a me il neurone. Però il fatto che uno ti entri in casa e che tu non puoi fare niente, che se reagisce è colpa tua, che se addirittura detieni un'arma legalmente e vuoi difenderti è un problema tuo. Non è corretta sta roba qua. Sì, cioè, non è proprio così, cioè, la mette giù brutale, però... problemi ci sono stati. Però ecco, ripeto, ci sono opinioni, e un conto è il concetto di proporzionatezza, e deve esserci anche l'altro concetto, oltre che la proporzionatezza nella reazione per la legittima difesa, per come è stata modificata, l'altra cosa è che ci deve essere la persistenza dell'intenzione di creare danno da parte di chi ti è entrato in casa. E lì è dura in pochi secondi valutarla, eh? Cioè il problema è che c'è chi è stato, si è beccato la condanna per omicidio, sia pur colposo, magari è certo non volontario, ma perché usando la pistola ha beccato la scapola da dietro invece che da davanti. Dice, ah, ma allora lui non c'era più l'intenzione di crearti minaccia perché si era girato. Ecco, ci sono due sentenze su questo. Lì è un conto. L'altro conto è dire, ci abbiamo le frotte di persone che vengono da tutto il mondo perché tanto sanno che qui la fanno franca. Francesco ci chiama da Napoli, buongiorno. Eccoci Francesco, ci siamo? Sì, buongiorno, mi sentite? Benissimo. Allora, io volevo spostare invece il discorso sulla comunicazione. Cioè, Oscar prima ha dato una spiegazione sul discorso del magistrato, sì. Riguardando il discorso di Di Maio. Sì. Io non riesco a capire da cittadino comune perché bisogna vedere questi tecnicismi di comunicazione e non bisogna vedere poi la sostanza delle cose. Allora, è vero che la maggior parte delle prostitute che stanno in mezzo alla strada, in mezzo ai locali, sono rumene. È vero che la maggior parte dei furti in casa e tutto il resto vengono fatti purtroppo da extracomunitari rumeni. Come allo stesso modo è vero che noi, la Romania, ha importato dall'Italia know-how, cultura, educazione, industria, economia, perché noi stiamo andando là. Allora perché non ci soffermiamo su questo e invece andare a vedere sempre quelle virgole, perché ci sono le minoranze, perché bisogna stare attenti? No, ma se vuole io le rispondo, perché il messaggio è stato veicolato dal PM e da Di Maio, che non so quanto ci avesse riflettuto, come se, ripeto, ci fosse una concentrazione maggiore di delinquenti romeni, invece che semplicemente la fotografia della stessa proporzione di romeni che scelgono di venire qua. Il problema è che ci sono tanti romeni in Italia e vengono in Italia, il 40% totale dei loro migrati in Europa, perché si trovano bene per la lingua e per lavorare. Perché, come dice lei, se ci sono tante prostitute romene, ripeto, è perché non è che sono le romene che si prostituiscono, le romene prostitute nel mondo vengono in Italia a prostituirsi. Come sembra dal messaggio, quanti romeni che ladri che ci sono, perché vengono in Italia a rubare. Ecco, io non sono tecnicismi, è la sostanza. Ma no, è una questione di numeri. È una questione di numeri. Cioè, il punto che Di Maio non ha colto, Francesco, è che il 40% dei rumeni che emigrano dalla Romania vengono in Italia. Essendo una percentuale così alta, è statisticamente ovvio tutto che tra di loro c'è una statistica anche molto più ampia di criminali, perché ricercati, no, con le cose ricercati, tutto qua. Capisce, Francesco? È questa la questione, cioè se tecnicismo, se venissero in Italia il 3% dei rumeni e trovassimo il 40% di loro di criminali in Italia, allora sarebbe grave. Cioè abbiamo un problema di ordinamento, siamo il paese, per così dire, della mafia libera e della rapina libera. Ma ci sono tanti ricercati rumeni in Italia perché ci sono tantissimi rumeni in Italia e quindi si perdono nel grande numero. Detto Stefano questo. Ci chiama dalla Spezia invece. Stefano. Sì, buongiorno. Dalla provincia di Spezia, vabbè. Sì, buongiorno, mi sentite? Sì. Sì, è sempre per il discorso della proporzione dei rumeni che delinquono e dei rumeni che vengono in Italia. Sì. Ecco, non vorrei puntualizzare troppo, però a me sembra si prendano due insiemi differenti. Perché il 40% dei rumeni che emigrano sono un X% della popolazione rumena, ma il 40% dei criminali non è dei criminali, è il 40% delle richieste di Interpol, non dei criminali, cioè, dei delinquenti. No, vede che non capisco. È il 40% del totale di identificazione o arresto internazionale che viene alla Romania, viene per gente, per rumeni che stanno in Italia, non è il 40% totale dei criminali. Quindi il 40% del totale degli emigrati diffusi in Europa rumeni sta in Italia? Sì. Qual è la percentuale di pratiche internazionali di polizia che riguardano i rumeni che risulta al ministro romeno? Il 40%. È la stessa proporzione, quindi vuol dire che sono due fenomeni allineati, non che ci sono più criminali che rumeni. Ecco, è proprio così, banale. Massimo, anche il nostro ascoltatore diceva appunto che c'era questa discrasia dei due numeri delle statistiche. Comunque... niente, ci vuole un matematico ormai per interpretare anche le dichiarazioni dei politici. Bisogna, ci vuole un esperto di statistica. Temi, un po' di numeretti ci vuole. Del resto, senti, oggi ho letto questo titolo: Emiliano, quel salto in politica imitando Clint Eastwood. Titolo di Repubblica. Ha scritto un libro. Ma Clint Eastwood, Emiliano. Ma insomma, si sarà ispirato a uno dei suoi cosi da caso Scorpio tuo, dai. Non lo so. Sì, vabbè, rotto il tentine ballando. Ci ritroviamo domani, sei da solo, quindi ci ritroviamo lunedì, siamo in ferie, ci ritroviamo martedì. E ci ritroviamo martedì. Buona Pasqua a te, intanto. Grazie.